Sabato 28 e domenica 29 parte la stagione di TDSI, che è intitolata Le congiunzioni avversative, partendo da quelle parti del discorso che invece di chiudere una frase rilanciano e si proiettano in una dimensione immaginativa. È proprio il potere dell'immaginazione al centro dell'opening di sabato e domenica, in cui presenteremo il nostro nuovo spettacolo che si chiama We Did It, alle 8 sia sabato che domenica in Arena Orfeonica con l'ingresso dall'Atelier C. E We Did It è un lavoro che si proietta proprio nel futuro, è ambientato tra alcuni decenni e immagina un mondo nel quale alcune delle crisi che in questo momento ci attanagliano e che mettono in difficoltà proprio la sopravvivenza della vita umana e delle altre specie sulla Terra, sono state risolte attraverso una serie di soluzioni, di concezioni che noi già vediamo in nuce, ma che vivono in contesti molto più piccoli e ristretti, che invece si sono ampliate e sono state scalate su dimensioni più ampie. Quindi è un, diciamo, un documentario ipotetico ambientato nel futuro che ci racconta di un mondo nel quale la relazione tra le vite è più armonica. Di cosa parla in questo mondo? Cosa c'è In questo all'interno? mondo, allora, si parla, è un documentario senza immagini, fatto per immagini mentali, quindi si parla dall'agricoltura rigenerativa alla ricostruzione di dimensioni comunitarie nomadiche ad alta e bassa densità. Si parla di rigenerazione delle barriere coralline attraverso un lavoro di rafforzamento dei coralli, si parla di Detroit, di come gli orti urbani hanno portato una dimensione comunitaria diversa, si parla di sviluppo e generazione di energia solare dal basso, si parla di tutto questo però senza quelle parole, noi chiamiamole buzzword dei ladri di parole, cioè sostenibilità, politiche ambientali, che in questo momento sono state un po' sottratte dalla loro sostanza e utilizzate un po' spesso per operazioni di greenwashing. Quindi è stato proprio un lavoro anche di riformulazione del linguaggio e attraverso questa pratica che ci siamo inventati che si chiama bioimmaginismo, che è sostanzialmente attraverso la descrizione suscitare immagini mentali. Quindi ogni spettatore vedrà il proprio spettacolo attraverso questa forma, diciamo, di emancipazione dell'immaginazione. Sì, è un programma che ha richiesto anche un adattamento scenico, appunto materico in sé per sé, che prevedesse all'interno l'immaginario un nuovo mondo anche in un'ottica ecologica. Sì, poi la cosa interessante è che questo tema si sviluppa anche nel modo in cui lo spettacolo proprio è fatto, perché lo spettacolo viaggia attraverso un pulmino elettrico che è infrastrutturato con dei pannelli solari che lo rendono totalmente, rendono gli impianti luci, gli impianti audio totalmente a emissioni zero, perché vengono ricaricati attraverso i pannelli. Siamo riusciti attraverso un bando a acquistare le attrezzature e questo pulmino elettrico, diciamo, con lo spettacolo self-standing, fa tappa al sì. All'Atelier C sabato e domenica e poi riparte con una tournée slow, capillare, andando proprio alla scoperta dei luoghi. Proprio per questo, infatti, debutta all'interno anche del programma di Itaca, che è il Festival del Viaggio e del Turismo Responsabile, con il quale abbiamo appunto fatto, diciamo, una comunicazione su temi che stanno a cuore a entrambi. Ci sono altri eventi che vuoi evidenziare all'interno del programma di quest'anno? Sì, allora, prima di tutto all'interno dell'opening, nel senso che prima dello spettacolo, che è alle 8, alle 6 c'è la proiezione del film Terra in Vista di Mattia Petullà e Julian Grisani. Mattia è un collega e un amico formatosi a Bologna, è stato tra i fondatori dell'Enfant Film, adesso è prodotto dal Centro Video di Bruxelles, ed è un film di cui ci siamo innamorati perché racconta in una maniera straordinariamente poetica la vita di queste comunità di lavoratori stagionali nell'agricoltura, nomadi, nel sud della Francia che si incontrano, si lasciano e durante parecchi anni Giulia e Mattia li hanno seguiti con la camera. Quindi sembra quasi una pratica dello spettacolo We Did It, sembra quasi una di quelle immagini, c'è cioè una dimensione comunitaria presente ma che ci parla di possibilità future. E poi dopo il film e lo spettacolo alle 9:30 ci sarà un incontro coordinato da Alessandro Rossi del duo Rossi Mellara Mammut Film che proprio a partire dalle opere insieme a noi, a Giulia e a Mattia, ragionerà su come si riesce a costruire quel teatro e quel cinema che vogliamo. Questo per l'opening. Poi il programma ha tantissime cose, per noi interessanti, moltissimo è il nuovo spettacolo dei Mask che abbiamo visto nell'ultima Crisalide nella quale eravamo con Eleonora immersa nel fiume che invece verrà portato all'asciutto nel 1989 che racconta la storia e l'immaginario di ragazze molto piccole quando c'è stato il crollo del muro di Berlino, la Bolognina e come come il loro immaginario, l'immaginario di una famiglia comunista, si è trasformato tra gioie e traumi. E poi Ivan, insomma, sono tanti gli appuntamenti, le residenze con Claudio Larena e la nuova residenza, il nuovo Grand Tour con l'Istituto di Cultura Francese, programma che ci renderà gioiosi fino a dicembre.